Buonasera, torniamo sulla diretta con ai microfoni di Radio Wombat con Coccoli al Siligio. Questa sera sono abbastanza puntuale, vi sto facendo ascoltare un best of di Laverne Baker, che è una cantante che a me piace, che è molto allegrotta. Oggi facciamo una puntata un pochino particolare, perché andremo anche a riutilizzare un'intervista che è stata fatta sostanzialmente l'altro giorno a una DJ di questa radio, quindi forse ne riconoscerete la voce o forse no, perché sostanzialmente aveva un leggerissimo problema vocale, per cui la voce è completamente trasformata. Non sta parlando comunque da una grotta, è proprio la sua voce che purtroppo è così. Si tratta di Bloody Mary, DJ Bloody Mary, e però questo lo ascolteremo nella seconda parte in chiusura, quando io non c'ho più voglia di parlare, quindi faccio play e faccio partire sta roba dei 20 minuti che se ne va avanti da sola, e così chiudo anche brillantemente la puntata. In apertura, invece, volevo darvi qualche notiziola a spot, non troppo impegnativa, una abbastanza, diciamo, triste almeno per la persona che l'ha dovuta subire. Infatti, un po' di tempo fa vi avevo parlato di questo pischello Cain Gamble che era stato arrestato per aver hackerato cellulari, case, computer, case nel senso che proprio gli è entrato sul televisore di casa e di alti funzionari della CIA e dell'FBI. Ecco questo Gamble che faceva parte di un gruppo che si chiamava Crackers with Attitude ed era un gruppo che i giornali riferiscono come pro-palestinese, che ha preso appunto come target alcuni personaggi dell'intelligence americana. Ebbene, a gennaio si era detto che doveva esserci la sentenza contro di lui e poi era stata rimandata. Ecco, è uscita questa sentenza e lo ha condannato a 2 anni di reclusione, una pena simile a quella che hanno preso altri suoi compagni di crew che erano stati arrestati e processati già l'anno nel 2016, già insomma già anni, già un paio d'anni fa circa, che rispettivamente hanno avuto 2 e 5 anni di prigione. Quindi, diciamo, il giudice ha rigettato diciamo, la tesi della difesa che sostanzialmente diceva che boh, cercava di sminuire i fatti e riportarli a quello che potrebbe essere l'attività di un quindicenne che si indigna giustamente per l'atteggiamento del governo americano e decide di fare qualcosa a proposito. Ebbene no, loro l'hanno assimilato a una campagna terroristica estremamente fastidiosa di persone politicamente motivate, assimilabili a formazioni cyber terroriste. Questo è quanto afferma il giudice. Boh, niente, se provate un pochino a approfondire la notizia, vi fate, vabbè, 2 risate per gli scherzi che questo ragazzino propinava, tra cui veramente delle cose scenografiche, nel senso che ha fatto apparire la scritta I own you sul televisore di casa di qualche personaggio dell'intelligence. Era molto spocchiosetto e tamarro perché bersagliava di scherzi abbastanza, come definirli, volgarotti, senza dubbio volgari, sì, volgarotti le proprie vittime. Diciamo, questo non gli ha giovato poi in tribunale, però in qualche modo, ecco, testimoniava la genuità della loro arrabbiatura, ecco. E con questo niente, vi lascio a un altro pochino di musica, mi preparo con la seconda notiziola, sono solo 3 le notizie e poi partono i 20 minuti di intervista. Torniamo qui in diretta dopo un po' di musichina. Stiamo ascoltando, ve lo ridico perché mi piace molto questa cantante, è Laverne Baker. E questo è un best of, i brani che ascoltiamo sono completamente a caso, i titoli non li so, girano e via via. La prossima notizia in realtà voleva essere appunto controbilanciare, facendo vedere un altro tipo di hacking. Lì abbiamo appunto un ragazzotto arrabbiato con i suoi amici che prendono come bersaglio l'intelligence americana, che li condanna a anni di prigione per le offese subite. Invece da questa parte qua abbiamo, sembra, una qualche forma di business intelligence, che è un tipo di hacking abbastanza, diciamo, poco considerato dai media, che ricercano di solito o la notizia scandalistica con il ragazzino alla War Games, oppure quella più da cyber war, no? Di stati che si sfidano sull'agone dell'internet. Questo invece è un hacking molto più terra-terra e prosaico, probabilmente quello che è più redditizio. Si tratta appunto di business intelligence, cioè di hacking di compagnie contro altre compagnie. Questo è particolarmente inquietante, secondo me, perché diciamo, va a scegliere come obiettivi persone che in qualche modo lavorano nel campo dei macchinari sanitari. E in particolare i macchinari sanitari anche di una certa rilevanza, cioè quelli per i raggi X, le macchine per fare le TAC e tutto questo genere di armamentario. Ecco, è uscito da poco, è stato, diciamo, reso pubblico dalla Symantec, questo worm che è stato ribattezzato Orange Worm. Che pare sia stato riscontrato per più del 40% dei casi di vittime, appunto su diciamo, personaggi estremamente scelti di ditte che lavorano nel campo della sanità in mezzo mondo. Sostanzialmente tra i paesi dove è stato trovato il malware si va veramente dall'Arabia Saudita alle Filippine, alla Francia, al Canada, insomma, mezzo mondo di chi probabilmente è all'avanguardia in questi settori. Il Worm sembra una cosa studiata per i business intelligence, perché appunto anche gli altri colpiti da questo Worm, che quindi è un Worm in parte si espande anche a caso, però sono sempre in qualche modo settori che sembrano avere a che fare con l'economia. Penso che l'8% delle tracce riscontrate riguardava il settore dell'agricoltura, un altro 8% la logistica, un 15% l'information technology, la manifattura per un altro 15% e il 40% la sanità. Da lì si è dedotto che probabilmente andava a ricercare esattamente questo. Il malware veniva rilasciato principalmente, pare, dopo un'attenta analisi dell'obiettivo, cioè non completamente a caso. È un malware per Windows. Se siete curiosi, cercatevelo. Il Trojan che utilizzava, cioè che veniva installato, si chiamava Vampyrs. Comunque, se vi volete poi cercare la notizia, magari metto un link su il blog. Ora un altro po' di musichina e poi l'ultima notiziola prima della lunga intervista. Darling, understand. I'll do the same for you. Talk, talk to me when I'm lonely. Near or far, no matter, darling, where you are, sing your love for me only. Yes, do the things I want you to. Give me a break. One break, I'll do the same for you. E sfumando questa, immagino, struggente canzone d'amore, parto con l'ultima notiziola, che in realtà riprende qualcosa che avevo già detto qualche tempo fa, che era stato questa mega scandalo in qualche modo informatico, nel senso che sì, se pensate che io stia mangiando, in realtà sì, sto mangiando delle patatine perché c'ho fame, sono le 9, non ho mangiato ancora niente, e quindi se faccio un po' la voce così è perché sto mangiando le patatine. E comunque questo riguarda appunto un software, CC Cleaner, che era uno di quelli che uno si metteva sul computer appunto per essere riparato dagli attacchi, ma così non è stato, nel senso che qualche furbetto ha pensato bene di prendere di mira un computer della ditta che produceva CC Cleaner, e da lì spandersi. È uscito da poco una timeline che spiega diciamo i 6 mesi di questo attacco, ed è interessante come meccanismo, come tipologia di attacco, perché è molto tipica, e quindi ve la volevo un pochino raccontare. Allora, questi furbetti cosa hanno fatto? Intorno all'11 marzo, verso le 5 del mattino, sono entrati attraverso delle credenziali rubate in un computer dell'azienda che ha creato CC Cleaner, attraverso il supporto, cioè attraverso un software che si utilizza normalmente per il supporto da remoto, che è TeamWeaver. Quindi probabilmente hanno rubato delle credenziali a qualche sviluppatore legittimo, che aveva accesso a questa macchina. Da lì hanno iniziato a guardarsi attorno e hanno cercato di trovare altre reti, e hanno iniziato a buttare software maligno, cercando di addentrarsi sempre di più, fino ad arrivare sostanzialmente a i computer che per loro erano più interessanti, sul quali hanno installato una vecchia, diciamo, una prima versione di quello che poi sarà il malware con cui hanno patchato CC Cleaner, che è stato poi scaricato da 20 milioni di utenti prima che qualcuno si accorgesse di quello che era avvenuto. Tutto questo avviene tendenzialmente a marzo. La timeline è interessante perché traccia sostanzialmente il comportamento da marzo fino a settembre. La vera infezione avviene sostanzialmente tra aprile luglio, tra aprile e luglio, in cui si prepara praticamente tutto. Si prepara tutto, penetra sempre più approfonditamente in questa rete, e intanto si prepara la versione, diciamo, malevola. La versione malevola di CC Cleaner. Questa viene rilasciata, pare, intorno ad agosto, nel senso che a luglio CC Cleaner viene acquisito da un colosso della, diciamo, dell'information security, che è Avast, la quale acquisisce Piriform, che era sostanzialmente la ditta che aveva creato CC Cleaner. E la paga diverse, però insomma la paga un bel po', un bel po' di soldini. E ad agosto la versione originale di CC Cleaner, quindi quella che voi potevate scaricare dal sito, viene sostituita con quella patchata e prodotta nei mesi precedenti da questi furbetti, cioè quella che si sono preparati sostanzialmente da aprile a luglio, l'hanno provata, riprovata, eccetera. Ora, prima che qualcuno se ne accorga, sostanzialmente dei ricercatori della Cisco, CC Cleaner viene scaricato da diverse decine di milioni di utenti, e i quali si trovano con il PC infettato. E appunto questa cronologia è secondo me particolarmente interessante, perché mostra come uno, ci sia un vero e proprio interesse nel, come abbiamo visto prima, appunto nel prendere di mira dei personaggi mirati che lavorano in qualche preciso settore economico. Ecco, questo avviene a maggior ragione per quelle ditte che si occupano di sicurezza, nel senso che se io c'ho e sono, che ne so, un produttore di uno software come CC Cleaner, cioè un software che si occupa di rimuovere i malware dalla mia macchina, io tendenzialmente userò questo software con la fiducia che questo software non sia di per sé un malware. Se lo è un problema. Sostanzialmente è un problema. Jim Denny on a mountain top, 30,000 feet to drop. Spot a lady on a runaway horse. Aha, that's right, of course. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny met a girl named Sue. She was feeling a kind of blue. Jim Denny is the kind of guy. Never liked to see a little girl. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny to the rescue. Jim Denny to the rescue. E chiudiamo questa puntata, come vi avevo anticipato, con un'intervista fatta dai microfoni, cioè durante la trasmissione Le dita nella presa, che è una trasmissione che va in onda la domenica una settimana sì e una settimana no su Radio Onda Rossa. Potete scaricarne comodamente i podcast, visto che Radio Onda Rossa non la prendiamo qua a Firenze, è una radio romana, però potete scaricarvi i podcast, che vengono messi con puntualità. Se loro sono bravi, non sono come me che magari faccio la trasmissione e il podcast lo metto dopo due settimane. E appunto questa intervista, che dura circa 21 minuti, anzi per la precisione 21 minuti e 14 secondi, è stata effettuata domenica sera, e ora io vi lascio in compagnia diciamo delle voci dei DJ, e quella che vi avevo anticipato è Vladimiri senza voce, sostanzialmente, che tiene questa intervista. E con questo vi saluto anche, vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. E appunto basta l'averne Baker, nel senso che sul finale dell'intervista c'è solo il finale dell'intervista, non c'è più musichina. La corrispondenza dovrebbe essere adesso stabilita, e diamo allora la buonasera a chi ci ascolta dall'altro lato del telefono. Ciao! Ciao! Ciao. Buonasera a voi. Dunque, parlavamo di questa guida che avete iniziato a tradurre e come dire, davamo anche alcune informazioni più generali sui contenuti. Volevamo parlare con te però nello specifico proprio della questione traduzioni, quindi anzitutto cosa vi ha spinto a tradurla e come intendete andare avanti nelle traduzioni, che saranno credo lunghe e forse faticose visto la vastità dell'opera. Ma sì, la cosa è andata così, che siamo entrati in contatto con questa opera, diciamo così, nella sua edizione cartacea, quindi molto possente, perché sono appunto 500 pagine circa, in un bel formato ampio, quindi tante parole, e ci siamo un po' iniziati a leggere, a spulciare, a leggere più nel dettaglio, e ci è sembrato un lavoro fatto veramente bene. Ora, io mi è capitato spesso di leggere guide sull'autodifesa digitale o comunque che volevano dare degli strumenti di autodifesa nel senso tecnologico, di autodifesa tecnologica e informatica in particolare, e molto spesso mi sono trovata un po' delusa, nel senso che spesso erano opuscoli molto piccoli, quindi dove in poche pagine, perché si dava per scontato probabilmente che chi ci sta intorno spesso non ha voglia di sforzarsi più di tanto, cosa probabilmente anche vera, e quindi in poche righe si cercava di condensare dei saperi che in realtà poi sarebbero molto più grandi, e quindi spesso io mi trovavo a rimanere appunto un po' delusa dai contenuti, perché secondo me non erano molto esaustivi e molto spesso magari erano sì un'infarinata, ma chi leggeva lo spirito magari di chi l'aveva scritta era quello, vabbè, ti do un'infarinata e poi ti vai avanti da solo, e invece chi le leggeva si faceva bastare quelle tre informazioni e sperava che poi da lì avrebbe in qualche modo ricevuto le pillole necessarie per poi vivere perfettamente, cosa che secondo me è anche pericolosa, perché è illusoria, si genera un po' un senso di falsa sicurezza, che è più pericolosa ancora del magari invece essere convinti di non saperne niente. Sì, e poi in qualche modo diciamo questa guida vuole essere, anche se non definitiva, quantomeno diciamo un buon mattone su cui poi costruire insomma le proprie conoscenze future, ovvero credo che avere un piccolo opuscolo che ti dice quali sono le soluzioni e quali sono i software del momento che dovresti utilizzare per stare al sicuro, soffre sicuramente del fatto che tra 4 anni quell'opuscolo sarà pressoché insomma datato, sarà obsoleto, mentre una guida che ti dice appunto quali sono gli elementi importanti per essere riservati in rete, questo probabilmente ti darà degli strumenti anche per capire poi negli anni successivi come modificare il tuo comportamento in base ai cambiamenti tecnologici. Io poi un'altra domanda che ti volevo fare riguardava, prendo spunto proprio dal lavoro di traduzione, quindi un lavoro in parte sul linguaggio, quindi quali erano alcune delle parole, visto che ci sono sembrate particolari e su cui magari sarei anche passato del tempo a cercare di capire come era meglio tradurle, perché mi sembra che questa guida usi un linguaggio talvolta originale per parlare di questi temi. Sì, ma infatti questa è stata un'altra delle cose interessanti che ci ha fatto decidere che forse poteva valere la pena lanciarsi in questo immane progetto ambizioso del resto, perché da un lato appunto c'era quello che abbiamo detto adesso e dall'altro c'era il fatto che hanno fatto delle buone riflessioni in materia di quella che viene spesso definita in italiano con un termine invece inglese che è privacy o riservatezza o confidenzialità, come la più o meno definiamo in Italia, e c'erano delle varie riflessioni che poi insomma le troverete nella prima uscita di questa guida, perché sostanzialmente nella prima uscita ci sono solo introduzioni, quindi leggerete un po' queste cose. E in particolare si faceva riferimento a una scelta che loro hanno fatto di non usare volutamente la parola privacy, vabbè, un po' perché in francese, non so, probabilmente lo sapete meglio di me, si tende a tradurre tutto, quindi non si usano, soprattutto nel linguaggio tecnico, non si usano termini inglesi come invece si fa ad esempio in Italia, quindi non esiste usare il termine privacy, così come computer si dice ordinateur, eccetera. E quindi non si usava, è stato scelto di non usare il termine privacy, ma neanche quello di sicurezza, ad esempio, che per loro era, ti rimandava subito a un termine abusato e ormai è entrato nell'immaginario come un qualcosa legato alla repressione, al controllo poliziesco e la legalità, cioè tutti i termini che poi rimandano ad altri concetti, e invece loro hanno scelto un altro termine che secondo me, secondo noi che stiamo facendo questa cosa, interessante come scelta, hanno scelto il termine intimità, proprio perché fin da subito volevano svincolarsi un po' dall'assioma, va bene, io voglio stare, voglio farmi i fatti miei perché ho qualcosa da nascondere, o comunque sono, cioè, delle cose strane da dire agli altri e non voglio che nessuno le sappia. E invece loro hanno fatto un discorso molto più, da un lato, semplice, perché hanno detto no, vabbè, ma io ho diritto alla mia intimità, io magari non voglio dire una cosa a una persona, non voglio che altri la sappiano, ma no, perché necessariamente quello sia chissà che segreto, ma solo perché è così, perché sono fatti, ecco, miei. Su questo volevo giusto proprio prendere un pezzo, no, della guida, che ne parlava e diceva: generalmente tendiamo a contenere le nostre azioni quando sappiamo che altri possono ascoltarci, guardarci o leggerci, e quindi aggiungo io, non impedirci di farle, però osservarci. E continua: canteremmo sotto la doccia se sapessimo che abbiamo delle microspie installate? Ci metteremmo a imparare a ballare se delle telecamere fossero puntate su di noi? Scriveremmo una lettera intima così liberamente se ci fosse una persona dietro le nostre spalle a leggere? Avete le cose da nascondere, non è soltanto una questione di legalità, ma anche di intimità. E questo ci sembrava un discorso molto interessante rispetto al appunto a che vuol dire, no, anche essere liberi. Cioè, l'idea che qui propongono è quella che la repressione non consista solamente nell'impedire dei gesti, ma la limitazione della libertà sostanzialmente sotto sorveglianza non esiste, o comunque è particolarmente inficiata. E non solamente forse negli esempi che loro fanno, molto giusti, molto azzeccati, non molto anche comprensibili, ma penso anche dal punto di vista dei modi in cui possiamo essere influenzati, quando dopo le nostre osservazioni possiamo essere profilati, catalogati e ricevere della pubblicità mirata che ci condiziona. Eh sì, in particolare forse vuoi aggiungere qualcosa su questo tema? No, cioè, ma al di là della pubblicità, anche proprio, cioè, quello sicuramente è un fattore, ma anche proprio in generale sì, ti senti condizionato nelle tue azioni in generale, chiaramente. Questo mi sembra un'osservazione che da un lato è banale, ma dall'altro effettivamente andava fatta in qualche maniera, perché altrimenti siamo sempre, tendiamo a legare appunto la sicurezza, come viene chiamata spesso, soprattutto quella informatica, a qualcosa che appunto ti devi difendere da un controllo, eccetera eccetera, quando invece in realtà forse il lato più interessante è proprio quello di non farti condizionare nelle tue azioni, anche quelle più banali, anche quelle di appunto scrivere una mail a una persona a cui voglio bene, glielo voglio dire e non voglio che gli altri lo sappiano, quindi non necessariamente solo da un punto di vista commerciale, perché poi magari questi mi influenzano in cosa compro, ma anche semplicemente il fatto che io posso sentirmi condizionato nella mia vita di tutti i giorni, anche quella più intima. Eh sì, infatti, diciamo, collegato a questo tema c'è anche un altro tema che è proprio vicino all'idea che noi con internet comunichiamo, cioè scambiamo informazioni con qualcun altro, e in qualche modo diciamo sentirci sicuri noi E anche nel caso in cui non abbiamo nulla da nascondere, o almeno pensiamo che sia così, tutela anche gli altri che comunicano con noi, perché spesso dobbiamo ricordarci che in una comunicazione a due spesso diciamo riprendiamo o nei tipi di chat, dipende, o anche nelle mail o in qualsiasi altro sistema di messaggistica, riprendiamo dei concetti che magari espongono gli altri ad essere intercettati, ad essere registrati in qualche modo, e questo può essere pericoloso per delle persone che magari o per interessi personali, proprio perché è la loro filosofia di vita, perché pensano magari così come può non piacergli mangiare la carne, così come può non piacergli vestirsi con vestiti fatti da un'altra parte, possono essere assolutamente decisi a non far trapelare informazioni su di loro e in rete. E magari noi non facendo attenzione a ciò che stiamo facendo, non facendo attenzione agli strumenti informatici o a come li utilizziamo, possiamo lasciar trapelare informazioni su altre persone mettendo in discussione la loro privacy e la loro intimità. E credo che questo modo di esporre questa idea ci possa permettere anche una riflessione più ampia su anche che cosa vuol dire il legame tra l'identità e quindi anche l'anonimità, cioè l'essere senza nome, quindi in qualche modo chiaramente l'anonimità non è l'anonimato, scusate, non è il contrario del avere un'identità, ma è quantomeno quello di metterla da parte, no? In alcuni momenti è di nasconderla, con il concetto invece però anche di esposizione, cioè l'idea che ci viene molto spesso proposta è che tu per arrivare alla verità, per ottenere un'identità, per evincerla, quello di cui hai bisogno è un'esposizione totale del soggetto, possia poi capire il comportamento di una persona o di molte persone con delle telecamere, puoi conoscere il tuo corpo con delle analisi, puoi monitorare il tuo stato di salute con la Fitbit o di mille altri dispositivi che tracciano alcune caratteristiche come pressione sanguigna, glicemia e altre cose del tuo sangue e tenerle sempre sotto controllo, quindi tu puoi guardando molto conoscere un'identità e essere quindi più te stesso, mentre invece c'è da dire che al contrario uno ha una capacità quindi anche espressiva della propria identità ben diversa quando sa, non necessariamente che non lo vede nessuno, ma che può scegliere comunque qual è il target della conversazione, che può essere nessuno, come il caso, no, del diario segreto che qualcuno solo da ragazzino, qualcuno anche più grande tiene, come può essere il caso di una conversazione che deve rimanere tra due, come può essere anche il caso di un qualcosa che si vuole sia pubblico, insomma in tanti contesti in cui tu scegli e conosci qual è l'ambito in cui stai parlando e quindi hai un controllo sull'esposizione e questo ti permette di sentirti a tuo agio, grazie. Cosa che invece non potresti fare se fossi totalmente sotto osservazione. Ma tra l'altro si dà anche per scontato che l'identità sia un qualcosa di stabile, sempre uguale a se stessa, eccetera, mentre magari almeno a volte l'identità può essere qualcosa mutevole, in divenire, per cui poi in realtà il mio saltabeccare per esempio tra un sito e un altro potrebbe anche essere semplicemente il frutto di un cambiamento che sto subendo, o alcune scelte che faccio e che poi magari l'anno dopo non mi rispondono più, cioè, e sono molto più libero di farlo se appunto posso nascondere parte o anche tutto quello che faccio, nel senso non il fatto di dover ridurre tutto ai miei gusti principali e che quelli devono definire la mia identità, che sarà sempre così e sempre quella sarà, è abbastanza ridicolo, insomma, poi alla fine non è rappresentativo di nessuno di noi, penso. Eh sì, infatti diciamo questo della super esposizione e della, insomma, quello che poi è anche proposto in vari social network, è proposto in un internet che ti dice metti tutto online, insomma dici tutto, è anche poi il tema che lega il concetto di ipercoerenza narrativa, cioè di questo voler mostrare se stessi sempre in maniera univoca e sempre in maniera diciamo unilaterale, insomma non unilaterale ma coerente appunto, quindi con, come se uno avesse una sola faccia con tutte le persone con cui interagiamo. Invece sappiamo bene che, diciamo, anche all'interno solo delle nostre cerchie di amici non siamo sempre la stessa persona, ma in qualche modo cambiamo interessi, cambiamo atteggiamento, cambiamo le cose, l'accento, le cose che diciamo, e quindi in qualche modo, diciamo, avere la possibilità di non loggare, di non registrare tutti i nostri comportamenti da qualche parte, quindi tenerceli per noi e decidere a un certo punto di dire ok, quel periodo della mia vita non mi piaceva, non voglio più pensarci, avere la tranquillità che non ci sarà mai nessuno che a un certo punto arriverà e ti dirà ah, ma te hai fatto questo, mi sono scritto tutto. Ecco, io volevo portare tutto a un piano molto più prosaico, per una volta, ovvero sul tutto bello questa guida, speriamo di aver convinto qualcuno, si tratta di una guida a cui è interessante dare un'occhiata, e dove la troviamo è da moltissimo che viene distribuita, mi sa di no, quindi ti va di raccontarci anche della sua fase di produzione. Sì, viene distribuita penso da circa 2 ore forse. Abbiamo una delle prime copie. Un'anteprima ricchissima, sì. No, allora l'ultima edizione che è stata fatta, perché in realtà è l'edizione francese, cioè la pubblicazione francese vede diverse edizioni, ora non mi sembra 5 se non sbaglio, o 4. E l'ultima edizione è uscita a settembre del 2017, quindi è diciamo piuttosto recente. E noi la stiamo traducendo piano piano, perché appunto abbiamo scelto di fare così perché sostanzialmente ci sembrava una cosa molto interessante, ma sapevamo che le nostre energie erano limitate, e se dovevamo aspettare di aver tradotto 500 pagine per pubblicare, vabbè, cioè, magari passava chissà quanto, e poi sarebbe stato anche molto difficile trovare una forma con cui stampare 500 pagine, e non volevamo neanche porcelo questo problema in realtà. Allora abbiamo pensato a questa forma, che è una sorta di fanzine di uscita, quindi molto periodica, si spera il più a stretto giro, nel senso, io spero che ogni pochi mesi esca un numero, cioè la nostra idea è un po' questa. Compatibilmente chiaramente con le nostre forze, e quindi attualmente esce a puntate, appunto questo è il numero zero, quello che è stato distribuito oggi fisicamente a Dieter Trash a Firenze, sì, a Dieter Trash, se nome vecchio, ma insomma, a Brooklyn Berletti, che è un festival che c'è stato a Firenze al Next Emerson, dove oggi abbiamo portato in anteprima le prime copie. E poi vorremmo, ancora non l'abbiamo fatto, ma insomma nei prossimi giorni metteremo su un sito dove far scaricare l'edizione digitale, in modo che chi non ha accesso all'edizione cartacea può scaricarsi il PDF e leggerselo online, oppure anche stamparselo, perché l'abbiamo pensato proprio perché sia stampabile a costo praticamente zero da chiunque, anche se la può stampare con la propria stampante. È in formato A6, quindi molto piccolo. Sono circa 50 pagine, però in formato A6, quindi insomma sono 12x4 se non sbaglio, quindi un costo veramente irrisorio per chiunque. E quindi la nostra speranza è che sia individualmente, ma sia anche, che ne so, collettivi, distro, varie realtà e progetti in giro per l'Italia, se la trovano una cosa interessante possono stamparsela da sola e da soli e distribuircele. Senz'altro, la linkeremo anche dall'articolo di questa trasmissione, per cui ti ringraziamo moltissimo per lo sforzo anche vocale, mi sembra, mamma di mia, sentire per parlare con noi e di quello che ci hai raccontato, e a presto risentirci su queste frequenze. Ciao, grazie a ciao, voi. Grazie. Ciao ciao. Ciao. E allora mettiamo una canzone e riprendiamo tra pochissimo per qualche ultima osservazione e poi saluti. Una canzone. Ora mettiamo una canzone che parla di